All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, la cena dei regini. Prima siamo puntata dell'anno. Tornati nel 2014, nuova puntata, nuovo anno soprattutto. Ci eravamo lasciati un anno fa e sono successe tante cose nel frattempo. Ma intanto visitate www.bac.it, cliccate la cena dei regini, commentate a cena@bac.it cosa ne pensate anche di questa puntata, ma soprattutto raccontateci un po' della vostra vita. Noi intanto ci prendiamo una piccola pausa per mangiare e un piccolo spazio musicale per ascoltare una canzoncina. A dopo. Oh, needle, no. E ragazzi, da cena dei regini passiamo allo spazio dell'house, le ultime dell'house. Cosa abbiamo fatto in questo periodo? Tante cose. L'autopack sta migliorando la ristrutturazione. Sì, continuano i lavori alla grande, all'house, una struttura tutta nuova, nuova di zecca, bellissima. È diventata enorme. Non l'ho riconosciuto io, prima volta l'ho visto. Salessi. Di sicuro, cambiando l'immagine, ha migliorato completamente quello che era una volta. E non li pago per dire queste cose, quindi pensateci, tornate all'house a visitarla, è tutto purtroppo da un sacco soprattutto di grandi feste, ci siamo spassate a Capodanno in giro, cena e dicendo, ho conosciuto tante persone, sono stato ospite anche a varie serate in giro ed è stato tutto molto bello, perché comunque è giusto alimentare il periodo alcolico e comunque il colesterolo del natalizio con altre cene, altri ragazzi, adesso però ricominciamo ad andare in giro. Questa settimana già al mercatino del chilometro zero saremo con uno stand, qualche bollettina, a fare un po' di casino a random, cioè quello che viene. Gireremo i prossimi video, quindi mi raccomando, anche chi vuole partecipare alla cena, cena@bacco.it, scrivi e dimmi perché vuoi essere invitato alla cena. Magari puoi essere invitato, forse no, chi lo sa. Comunque ragazzi, adesso un piccolo spazio musicale. Anda, vai. Oh, I have so much to say to the moon. Summer is turning to fall, season too soon. I feel so lonely and I don't know why. Wanna see my reflection in somebody's eyes, but I can't stay another day. Where do I come from? Where do I go down every road? I'm looking for my beautiful stranger. And I travel around, my feet never touching the ground. Quite forget that I'm living in the lost and found. But oh, we'll never know if she harvested just what she sowed. What was she holding on to when she had to let go? I can't stay another day. Where do I come from? Where do I go? Always finds her fears. And I just need a friend, a blood sister cutting me in. Something thicker than this water flowing under my skin. I can't stay another day. Where do I come from? Where do I go? Alone, nobody home, looking for my Ragazzi, tornati alla cena dei regini, il back.it, cliccare la cena dei regini, commentare la puntata e anche la storia che stiamo per ascoltare. Che succede quando tre ragazzi aprono la loro casa e organizzano una mostra estemporanea per artisti locali e non? È successo a Reggio. Uno degli organizzatori ce ne parla, lui è Sean Cronin. Buongiorno ragazzi, ciao Sean, dove nasce l'idea e come si struttura? L'idea è nata dal progetto di un video, della registrazione di un video di un pittore. Doveva dipingere su una tela ispirato da una mia poesia, perché ho creato un blog che si chiama 12 Bands, dove con le mie poesie creo dei paralleli, cerco altri artisti per creare dei paralleli. E il pittore è un pittore messinese, che è Gianmarco Spadaro, e nel progetto video c'era l'idea di portare altri dei suoi quadri mentre riprendevamo, così che comparissero in sequenza. E allora, dato che doveva portare tutti questi quadri da Messina, gli abbiamo chiesto: possiamo allestire una mostra? E gli abbiamo rubato l'appartamento. E dalla... quindi era casa sua? E lui studia architettura insieme ad altri due ragazzi di Messina. E gli abbiamo semplicemente rubato tutto l'appartamento chiedendogli il permesso. Fantastico questa cosa. Quindi lui ha tenuto la sua vera stanza e ha allestito tutto con i suoi quadri. Abbiamo allestito per fare. La mostra è durata quanti giorni? Tre giorni. 27, quindi... 28 e 29 dicembre. Più o meno continuativi, giusto? Sì, sì. Cioè, eravamo aperti dalle 10 all'1, poi una pausa pranzo, e dalle 15 alle 21. Un piccolo inciso. I vicini di casa alla fine hanno detto qualcosa oppure... No, sono venuti. Sono semplicemente venuti a non a reclamare come succede di solito, ma per finire. Ma dai! lo sappiamo bene noi. Fantastico. Adesso passiamo, elenchiamo velocemente una lista veramente lunga. Gli artisti che hanno partecipato a questa tre giorni di mostre. Io ti dico un nome, tu mi dai un'idea, un'indicazione, perché sono tantissimi nomi, quindi dacci una traccia per ogni artista. Sean Cronin. Ah. Originale, fantastico. Modesto, soprattutto. Semplicemente ho allestito, eravamo in quattro. Io, Giuseppe Ventura per la fotografia, Andrea Marino sempre per la fotografia, e Gianmarco Spadaro invece per la pittura, e poi Luigi Scopelliti per la scultura. Io mi occupavo invece della scrittura e soprattutto la poesia. Ho allestito creando delle installazioni come la tenda, che è una tenda con tutto materiale riciclato, e c'è la composizione dei miei versi di una poesia che si chiama Spento. Poi ho creato un ambiente molto ordinario, cioè classico mio, un tappeto buttato per terra, tutto in tinta, e la poesia ovunque. Quindi una macchina da scrivere sulla scrivania. Sull'altra scrivania tanti quaderni fissi là, un filo che passava da un muro all'altro con tanti fogli pendenti, eccetera. Hai quindi collimato tante idee per fare pittura, eccetera. Degli spazi comuni. Queste cinque persone sono, diciamo, il nucleo creativo, possiamo chiamarlo così, della rassegna. Sì, come organizzatori partiamo in tre. Ognuno aveva una sua stanza, un suo spazio. Sì. In più c'era Gianmarco che non ha partecipato a livello organizzativo per problemi di studi e di lontananza, soprattutto durante le vacanze, però in tre fondamentalmente. E sono gli altri due fotografi che sono anche i miei coinquilini a Milano. Fantastico, perché loro hanno utilizzato anche il bagno di questa casa, allestendo nella vasca una specie di... Il letto di fotografie dove spuntava una gamba con un... Ma avevate un altro bagno a disposizione, no? No, gli ospiti, il pubblico andava là in bagno. Gradivano la presenza della sala. Io ho problemi di reni già, quindi gli ho chiesto scusa perché vado centinaia di volte nel tuo bagno, devi scusarti. Fantastico, la salma non inibiva. No. La mia salma. Aprivamo due secondi la finestra. Continuiamo velocemente con i nomi. Mariangela Sergi. Eh sì, lei è stata una dei compartecipanti della cucina, che è stata allestita da fotografie, ha fatto un parallelo con Walter Alberio. C'erano le sue fotografie, raccontavano la storia tutta ispirata da Star Rover. È un libro molto bello. Stefania Mafrica è vivace e ci ha pensato 100.000 volte, ha costruito nella sua cucina, nella cucina il suo viaggio, partendo Reggio, toccando la Turchia, Torino, Salerno, ha creato anche dei bicchierini, faceva dei cannocchiali, ha lasciato una cosa incredibile. Sì. Aspetta, quella dei piedi era lei? No, no, quella dei piedi era Antonio Buccio e Mona, che hanno ritratto, okay, la quotidianità, il fumetto. Fantastico. Cioè hanno ritratto la quotidianità di un uomo fotografandogli i piedi. Quindi varie foto che ritrovano i piedi di questo tizio nei suoi momenti particolari. Clarissa Cuzzola? No, Clarissa Cuzzola, sì. Lei ha portato 6 foto. Ha pure creato la parte interattiva dove sul bordo del muro c'erano i post-it e ti chiedeva la cosa che ti uscita. Quindi lei è stata ha portato una bella idea, mm-hmm, e poi ha portato questo suo progetto che ha colpito un bel paio di persone. Giuseppe Zema è stato favoloso perché nel giro di poco tempo è riuscito a fare questi scatti a Milano che riprendevano Corso Lodi, la Triennale, eccetera, eccetera. Li ha messi in stile Polaroid. Giuseppe Ventura gli ha fatto la post-produzione. Ha preso una frase come descrizione del suo evento che era molto toccante. Poi lui gestisce pure un libro, che è la pagina dove puoi raccontare i tuoi viaggi, mm-hmm, e poi lì in breve. E quindi siamo un attimo appoggiato a questa cosa. Mona e Antonio Buccio, abbiamo detto, sì, già. La storia dei piedi costellata dai viaggi di Moana, che erano Bruges, Helsinki. Bellissima, sì, questa cosa. D'altro, ne parlavo con un certo trasporto mentre visitavo la cosa. Mm-hmm. Un nome a noi caro, Giorgio Furfaro, Giorgino, che partecipò anche. Ho partecipato con degli scatti tratti dal suo viaggio in America. Ed era molto interessante perché c'era una delle foto che ritraeva il bus che portava tipicamente, cioè, la leggenda, tutte le leggende del blues, infatti, mm-hmm, c'è scritto Muddy Waters, mm-hmm, un bus leggendario, e poi Bune di sabbia, architettura di tutto. Di tutto. Sì. Antonio Marino. Antonio Marino invece è esposto nel corridoio, e lui studia a Parigi, ed è venuto e ha portato il suo entusiasmo, devo dire che ha avuto una carica favolosa, uh-huh, e lui ha avuto l'idea, da cui ho tratto poi un'altra idea, di prendere le nasse delle barche a Pellaro e di appoggiare i suoi disegni colorati con gli acquarelli proprio sulle nasse, e le appese ai chiodi così anche da non sporcare il suo muro. Come esposizione, diciamo, guarda. E lui ritraeva in un trittico le strade di Parigi, la donna incontrata sulla metro, visioni, la tua biblioteca, quindi molto carino. Alessandro Gioffre D'Ambra. Lui è un pazzo, nessuno riusciva a controllarlo, ha occupato tutto il corridoio, e l'ha riempito di foto, però ha fatto un bellissimo, ha creato un mosaico bellissimo. Giorgia Giordano si è aggiunta perché lei era prima nella sezione delle letture di poesia, poi il primo e il secondo giorno ha portato degli acquarelli per disegnare sul pannello che tu hai visto all'entrata, uh-huh, che permetteva tutta quella sentire di disegnare. La gente che entrava a questo pannellone e poteva interagire liberamente acquarelli, pannarelli, eccetera, eccetera. Uh-huh. E lei ha portato i suoi disegni e abbiamo deciso. Cioè, era sempre un work in progress, quindi abbiamo scagliato sul muro. L'abbiamo fatto esplorare pure lei. E infine Gaetano Tramontana in Spazio Teatro. Sì. Che ha portato una, sì, sua esperienza. Abbiamo fatto il primo pomeriggio di attività, è stato le proiezioni video che sono arrivate da un ragazzo di Scilla, Tonino Sanfedele, e tanti altri, lo stesso Giuseppe Zema, Sabino Coutier dalla California. E a concludere questa giornata c'è stato appunto Gaetano Tramontana, mm-hmm, oltre ad essere un amico di famiglia, è proprio un artista, credo. E ha portato la sua esperienza e la sua professionalità, mm-hmm, e ci ha intrattenuto tutti, ci ha incantato, diciamo. Queste persone, abbiamo detto, sono di stanza a Reggio? No, stanno altrove, quindi... Ci sono persone che stanno fisse a Reggio, che studiano a Messina, come ci sono tante altre che studiano fuori, come prima Antonio che studia a Parigi. E si è creato quindi questi 3 giorni, questo ambiente, sì, tutto particolare. Le persone che hanno visitato questa mostra, che riscontro avete avuto? Che tipi di persone sono venute a trovarvi? Il riscontro è stato bellissimo, perché dal primo giorno sono venute un po' di persone e già eravamo contenti. Okay? Mm-hmm. sappiamo tutti quella che è la movida calabrese, tanta al gatto matto quello. La birra è una è il grande mantra. Se il nastro al posto di un po' d'arte, un po', non lo so, chiacchierare di qualcosa di diverso oltre le solite cose. Però sono venuti tutti, dai più piccoli ai più grandi. Gli altri organizzatori mi chiedevano sempre, ma anche mia madre, ma perché non fissi l'orario preciso, tipo fai dalle 5 alle 8, fai dalle 6 alle 8 di pomeriggio, così non ti devi spaccare, l'apri, ti gestisci la tua giornata, eccetera, eccetera. Poi io pensavo, se non l'apro la mattina, le famiglie con i bimbi piccoli non verranno mai. E infatti è riuscito l'esperimento, perché è giusto che la mattina vengano i genitori con le bimbe piccole. E vedere che ci sono genitori partecipi a queste iniziative che portano i figli per farli vedere che c'è del movimento, è stato molto toccante. E però gente di tutti i tipi, di tutti i colori, cioè sono venuti i ragazzi dalla Danimarca, che erano qua in vacanze, sono passati loro piuttosto che tanti altri regini. E c'erano dei signori inglesi, una signora egiziana con suo figlio, e una signora irlandese passata, mi ha fatto molto piacere. E, però il riscontro è stato bellissimo, soprattutto il secondo e l'ultimo giorno. Sono venuti oltre gli orari, perché noi non ci interessano gli orari, noi vogliamo solo entrare, però li abbiamo tenuti dentro con piacere. Un'esperienza che lascia sempre anche dei propositi per il futuro. Comunque la cosa è andata bene, quindi quali sono, se ci sono, i prossimi progetti di questo, diciamo, collettivo oppure individuali? Per il momento ci dividiamo un po' tutti, ognuno prende la sua strada, tipo io e Giuseppe risaliamo a Milano, lui è là già uno spetta e poi torneremo a creare in casa altre iniziative. Però c'è chi ritorna a Parigi, c'è chi ritorna a Messina, c'è chi ritorna semplicemente a casa ai suoi doveri. E, però per ora non stiamo preparando niente. Io che cioè, questa idea la vorrei sviluppare gradualmente, pian piano, quindi ci vuole molto più tempo. Certo. Perché questa è stata una cosa, cioè l'idea è venuta il 30 novembre e abbiamo fatto il 27, 28 e 29 di dicembre, quindi abbiamo avuto pochissimo tempo. La prossima volta vogliamo creare un evento molto più grande, non è detto che saremo sempre gli stessi, perché chiaro, magari essendo più grande la selezione artistica sarà molto più curata e dipenderà pure dallo spazio. Naturalmente. Sì, però la cosa bella è che intanto ognuno di noi so già che lavorerà a progetti propri e poi ci rincontreremo in qualcosa. Bello. L'idea è comunque di, abbiamo preso una casa, la prossima volta prendiamo un condominio, poi un quartiere, così da far diventare fantastico, la città d'arte magari. Magari. Adesso, Sean, sindaco per un giorno. Quali sono le cose che attueresti subito? Le prime cose da fare? Come cambieresti Reggio Calabria dal basso, tra virgolette? Una sola cosa o tante cose in un giorno? Scatenati. Non mi costruirei di sicuro la palestra come ho fatto prima nel mio ufficio. Dare il piano regolatore, cioè farei rispettare la legge, non un tabacchino davanti a un tabacchino o un bar davanti a un bar, più o meno come le farmacie che si danno i turni e pure le distanze per tenere quella concorrenza, no? E di sicuro non basta sale slot, basta compro oro, ma cambierei così tanto. Voi che cambiereste? Un po' tutti. Anche là, siamo tutti un po'. Sì. No, ma vorrei, cioè, Reggio ha bisogno di una svolta nella sua mentalità. Deve smettere di avere una mentalità chiusa, o come la possiamo definire, anche mafiosa. Perché, come già parlavamo tante altre volte, ci sono più persone che hanno la mentalità mafiosa che mafiosi, probabilmente. E la colpa è in noi, perché solo pochi di noi fanno e molti pochi, cioè tanti non fanno e stanno semplicemente seduti in piazza o si stanno a casa. Abbiamo avuto un'esperienza qualche tempo fa con una signora al mercatino, la classica regina che tu comunque è arrivata a un livello di totale apatia totale. Comunque ragazzi, per Sean Cronin un applausino. Le persone che fanno è che si ritrovano anche alla cena dei regini, perché voglio dire, è importante creare questo hub, questa comunicazione. C'è una chioccia del back.it, commentate anche la sua storia, e adesso un piccolo spazio musicale. Ragazzi, la cena dei regini, mi raccomando, il bac.it, cena@bac.it per commentare la puntata. Passiamo allo spazio delle notizie, ma prima i messaggi che sono arrivati in questo lasso di tempo. Salutiamo Santo, Santina, Gabriele, Gabriele, Marco, Domenica, Tiziana, che ci hanno scritto per salutare la cena. Grazie di averci seguito. Ciao, ciao. Continuate così. No, no. Non facciamo questo, ma lo facciamo. Sono pochi, ma soprattutto Laura che ci scrive: ho ricevuto guanti e tazza per Natale. Cara mia, devi diffondere la cultura della cena, e così sapevi che, perché noi abbiamo fatto il video spiegando, non si regalano le 10 cose da non regalare a Natale, tra cui i guanti e le tazze. Se spammava quel video, cioè, dai, amici. Condividi, clicca, vabbè. Ragazzi. Però tu, noi al bacca abbiamo regalato le tazzine alla caffè. Che ho gradito, perché io lo utilizzo in una maniera esponenziale. Io saluto Pasquale da Treviso. Pasquale da Treviso. E ci segue sempre, dai. Pure così. Posso fare un saluto? Ciao, io saluto, saluto tutti i miei familiari e li ringrazio per avermi ricordato la ragazza della Colombia. Sì, sì, certo. Saluto anche la ragazza della Colombia, non mi ricordo come si chiama. E saluto me stesso e mi ringrazio per essere una persona bellissima. Vabbè, sopprimetelo mentre continuiamo il programma. Ragazzi, bisogna rientrare nei ranghi per una notizia triste. È esplosa Rubber Duck. Era un'importante papera di gomma, un'opera discussa dell'artista olandese Florentine Hoffman. Quando li prendo di slancio su di ranchi non li complicati. Ha girato i porti di mezzo mondo, è esploso il 31 dicembre nel porto di Taiwan ed era questa immensa papera di gomma che comunque era spacciata, diciamo così, per come opera d'arte. Ha girato 13 città, 9 paesi del mondo ed è esplosa a causa di un blackout elettrico. Vabbè, è un'opera d'arte, un'enorme papera di gomma che gira il mondo. Perché privarsene, dici tu? Immagina che ti affacciavi percorrendo la sfera geografica e la fatica di questa enorme papera di gomma che ti vicino al porto. Ma lei perplesso. La sera si vede anche di peggio. Ragazzi, scommesse da vincere, una ha vinto sicuramente il ristorante Antojera La Popular di New York, perché ha iniziato a creare degli hamburger spaziando con gli ingredienti. In particolare un ingrediente che sta avendo particolarmente successo è il cosiddetto Grass Whopper, l'hamburger Grass Whopper, fatto di grilli e cavallette. Ed è la nuova grande delizia dei New York. Subito dopo la cena potevi anche ridare di questa notizia per ispirarvi alla prossima cena. Adesso saprò che la prossima volta vado a New York e buttare la fiamme. Crossover dei regini. Dice che comunque c'è una grande affluenza di persone che vanno là proprio per assaggiare il hamburger e poi i grilli. Pensateci. Noi pensiamo che qua beviamo il sangue di maiale. Lo mangiamo nei dolcetti, infatti. No, mio nonno lo beveva proprio. Lo mangiate. Santo cielo! Però non era quando la natura fa cose veramente pazze, a parte il sangue di maiale, il lago delle mummie di Natron, questo particolare lago, un posto veramente particolare nella Tanzania, la sua caratteristica veramente insolita è che sa trasformare gli animali che si fermano lungo le sue acque in vere e proprie mummie. Mummie di questo si fermano nel senso che ci bevono o nel senso che ci muoiono? Ovviamente stanno un tempo determinante per un lasso di vita insomma particolare, quindi c'è questo pipistrello ad esempio che si era fermato in questa a farsi un sonnellino ed è rimasto mummificato. Lo vogliamo ricordare così. Questo perché vende gli animali, gli togli l'interno. Peggio, le temperature riescono a raggiungere i 60 gradi centigradi e l'alcalinità è tra il pH 9 e il pH 10.5, quindi diventano simili a statue di sale praticamente. Se si ferma un uomo che succede? Stessa cosa. Finora nessun uomo ha provato. Diventiamo un uomo. Non penso che abbia lo stesso effetto. Io credo che tu credi che i rifiuti di legge abbiano vita. Anche io non ho visto. Uno l'altra volta mi ha salutato. Appunto per il cestino. Spazzatura giabbionata si fa riconoscere. Ragazzi, ci sono errori che però valgono la pena fare. Se fermarsi in questo lago non vale assolutamente la pena, vale solo la pena per un cittadino messicano che negli anni 70 ha deciso di costruirsi un campo da tennis in casa. Ha sbagliato però le dimensioni, quindi lo voleva incastrare in mezzo a dei palazzi, non ha preso esattamente le misure. Però senza perdersi di spirito di iniziativa, anziché modificare il campo, perdere tutto il progetto, ha deciso di modificare il gioco del tennis in un nuovo gioco. Si chiama Padel, nasce comunque quindi nel Messico, nel Sud America, e sta avendo un successo clamoroso, perché come il tennis però i bordi del campo sono chiusi, quindi si possono utilizzare per fare i rimbalzi. Il campo è molto più piccolo, più pratico, e sta avendo molto successo, anche perché è molto accessibile anche a chi non è avvezzo al tennis, essendo spazi molto più ristretti, e si usa con dei particolari racchettoni che sono veramente una specie di tennis tutto compatto che non ce la fai. No, non andiamo nel palazzo per fare un campo da tennis. Già, perché modificare il progetto? Andiamo nel palazzo. Perché? Andiamo a modificare, facciamo un nuovo gioco. Capisci? Però ha un attacco di creatività. È stato volando, tanto che si pensa che dal 2015-2020 potrebbe addirittura soppiantare il tennis tradizionale. Addirittura. Alle prossime Olimpiadi non ne trovi. Sì. Povero Federer. Ragazzi, si parte da uno sport nobile così, però anche la versione agricola funziona ed entra. Così, a proposito di cose agricole, il successo viene dalla Sud Corea per un'applicazione sviluppata da Nabix, questa casa di produzione sudcoreana, ha creato quello che in italiano si tradurrebbe Tesoro sono io, l'app che replica esattamente il comportamento di una fidanzata virtuale, che praticamente ti chiama di notte, ti manda dei messaggi in continuazione durante il giorno, addirittura la notte riproduce il suono di una donna che ti dorme accanto, e ti segue tutto il giorno mandandoti dei messaggi falsi da questa questo in Corea amante virtuale. non è molto giapponese. Sud Corea. Corea. No, Corea. Corea. Come si chiama l'azienda? Nabix, proprio Nabix. perché trovare una fidanzata è troppo difficile. Perché? Ma si può regolare verso l'intensità dei messaggi, perché sono... Ma io sai che no, ci sono dei si parla di modelli virtuali. Il più di successo è Mina di 22 anni, che fa anche delle videochiamate sullo smartphone 3 o 4 volte al giorno, ti manda dei messaggi del tipo stai ancora dormendo, hai tempo per fare una colazione, e ti dà la buonanotte la sera, e poi ti dorme accanto virtualmente con lo smartphone che replica il suono di una donna che dorme pacificamente, specificano. No, che ti russa. Ragazzi, chi non lo vorrebbe? Scusa. Chi ha già una donna accanto? Perché se non c'è cosa passato, quindi non ne vorrebbe anche un altro. Panda, apri il portafoglio. Basta poco, a volte anche quel messaggino nel cuore della notte mandato da un app così per svoltare la serata. Ragazzi, andiamo avanti con quella che è un'incredibile ormai moda della vita regina, gli incidenti spettacolo. Negli ultimi due giorni soprattutto una macchina si è ribaltata sulla via Marina con un rocambolesco incidente di cui ancora si disconosce perché è veramente impossibile ribaltarsi sulla via Marina, ma lui ce l'ha fatta. Ma soprattutto, secondo me, meriterebbe il premio Pulitzer ad honoris la notizia della panda che ha fatto le scale due strade parallele separate da una aiuola, dove c'è una scalinata. Allora si dice, cioè si è scoperto grazie a questa cosa, che la gente per tagliare, cioè per passare una strada all'altra, tagliava lungo le scale, cioè scendevano con l'auto dalle scale, sì. No, era a Gebbione. Dillo più in alto. Tutto questo ha funzionato fino all'altro giorno, dove un tizio con una panda si è incagliato alla fine delle scale ed è stato successo nel web. una quantità di condivisioni che appunto secondo me è da premio Pulitzer assolutamente, perché penso che neanche il naufragio del Titanic e lui ci è riuscito, ci si è incagliato come una panda nelle scalinate del Gebbione. Dove qui in medio è menù. È un quartiere molto complesso, molto con molte sfaccettature, quindi comunque il del Gebbione un rappresentante. Però, ragazzi, piccolo spazio musicale, c'è una chioccia di Bacco.it, commentate anche questa puntata e ci vediamo tra poco. Cooks out in the kitchen, and we're running out of water. La cena dei regini, ragazzi, passiamo all'angolo della nostra classifica. 10 cose della televisione italiana di cui diffidare assolutamente. 10 cose che sono un po' dei misteri, un po' delle cose da svelare, ma soprattutto da non svelare. Lasciamo che il dubbio vada avanti. Partiamo dal numero 10, le televendite impossibili. Vanno da Mastrota che vende i materassi fino a quelle console 8 bit taroccate per sembrare una PlayStation. E mi raccomando, che questo è l'ultimo giorno che mettiamo in vendita queste cose. È l'ultimo giorno. L'ultimo giorno da 3 anni. Da 3 anni, da 50 anni. Dall'inizio proprio. Bellissimo, le console 250 giochi. Cosa, l'ultimo modello ce n'è? C'è tipo Super Mario. Sì, funzionava solo quello, no, e basta. Funzionava solo Super Mario. Sì, 3 giochi, livelli e poi ripetuti completamente. Ripetuti alla grande, però. La magia del Made in China. La numero 9, questo per i nostalgici, i cartoni animati successivi all'era Cristina D'Avena. Da quando Cristina ha smesso di fare le sue sigle, è tutta un'altra cosa, diciamo. Si è sporcato il settore dei cartoni animati. E quindi... ricordiamo che dopo Cristina D'Avena anche Marco Matini ha fatto una sigla per un cartone animato. E Shaman King. Marco Matini si è cimentato in questa cosa. Che è qua? Ma il problema non sono i cartoni animati, il problema è la quantità di volte che può ancora ripetere Dragon. Shaman King era fighissimo, che problema c'è con Shaman King? Ho detto che la sigla era tutta la sigla. Ma boh, questo è l'altro problema. La cosa che l'ha fatto, questo cantante che ha fatto in Italia, dopo che Matter. Allora, ricordiamo soprattutto Yu-Gi-Oh! Che da cartone filosofico è passato a un corso in moto mentre si gioca a carte. Filosofico Yu-Gi-Oh! Quindi il primo Yu-Gi-Oh! Era filosofico. Ora gioco una stupa. Stupione. Stupione. Ho già questo nuovo brand in mente. Stupione. Lo dobbiamo fare. Ragazzi, alla numero 8, le interviste sempre uguali dei campioni dello sport. Cioè tu ti vai a intervistare e sono calciatori. Abbiamo messo questa cosa, sì, abbiamo lavorato bene, ma dobbiamo lavorare ancora meglio perché siamo primi in classifica, ultimi, non importa nulla. Non oppure ma il campione... Ma questo non gli impatta, io buccano prima e poi... Dobbiamo fare bene. Eccezione Ibrahimovic, che si gira verso l'altro giornalista e gli dice, ehi tu, vaffanculo. Ecco, lui ha cambiato lo schema. Che solitamente dobbiamo fare bene, sì. Oppure stiamo facendo bene. L'altra oppure... squadra ha giocato bene, meritava anche loro. Faremo bene, meglio per la prossima volta. Faremo bene, basta, poi continua. Così. Allora, cambiate magari, non so... L'autore. Lo scrittore che scrive queste cose... Qualsiasi cosa, un nuovo foglio in cui poter leggere, cioè, anche con quello con i cosetti grandi. Cioè. Dillo, anche Marco Masini, cioè, impiegatelo così. Come è andata la partita? Chi se ne frega. No. Ragazzi, numero 7, questa toccherà il cuore di tutti. Silenzio, perché la misteriosa fine che fanno le creazioni di Art Attack. Dove vanno a finire? Cioè, quel ragazzo, sono 10 anni che ci lavora, che attacca cartigenica, che incolla roba. Cioè, c'è un magazzino tipo Indiana Jones con l'arca perduta accanto il cestino di cartigenica. Stanno costruendo una base segreta per attaccarci. Soprattutto, scusate, ma soprattutto se voi notate, quello che fa... i lavoretti non è lo stesso che presenta Giovanni Mucciacciaro, non è Giovanni Mucciacciaro fatto, però le cose che crea alla fine sono quelle che tiene in mano Giovanni Mucciacciaro. Ma allora quindi, cosa succede? C'è un altro mistero. Finisce Neil e lui esce dallo schermo, una cosa del genere. No, Neil è quello che fa i collegamenti in esterno. E poi ritorna Giovanni Mucciaccia che lo tiene. Neil, che in realtà è un chitarrista death metal. Di tutto. Ma cioè, tu dici che la creazione reale la fa un altro tizio di cui noi vediamo solo le mani praticamente. Esatto. Mucciaccia, sì. Perché si nota anche dal tessuto della maglietta stessa. Cioè, c'è Giovanni Mucciaccia che c'ha di un tessuto. Scientifico. Ma soprattutto quello che fa le cose c'ha i pelazzi. Giovanni Mucciaccia è tutto. Giovanni Mucciaccia. Come va? Ah, si vede? Dire? A sto punto, Andrea, che fine fanno le cose? Che tu sai tutto. Cioè, allora, praticamente vengono trasportati in un'altra dimensione. Avete presente le Ender Pearl di Minecraft? Quando fanno i cassi. Non fa ridere, mi sa. Ma tornando al discorso dell'attacco che avevo utilizzato, ricordo che Art Attack fa. È molto simile a Mart Attack. Sarà un. No, tornando. Ma tutto è visto. Non fa ridere, ma Cadmon, quello che dice. Sarà una coincidenza? Vattene. Tu hai nominato tre programmi televisivi, disconosco totalmente l'esistenza, però sarà bello così. Cioè Art Attack è un messaggio subliminale che dice Adam Cadmon, che dice ovviamente che tutte le cose sono coincidenti, che non sono una coincidenza ma che nascono altre cose. Tipo è un politico, insomma. Più o meno. Tra l'altro passava la notizia che Art Attack fosse stato censurato perché spingeva i bambini a suicidarsi con le forbici dalla punta arrotondata. Però messa più volte nel braccio fa male, sì. Ascoltando mi capisci perché i bambini con la forbice dalla punta arrotondata così di lontano la volta di guardate la gente dei ricci, non guardate Art Attack. Spegnetelo ragazzi, al numero 6 un classico di tutte le reti private, quelle che dimagriscono di 100 kg usando solo una pastiglietta. La pastiglietta miracolosa che è presa una volta al giorno ti fa dimagrire di 100 kg. Puoi mangiare quello che vuoi. E poi c'è la foto. C'è la foto di un tizio che si è fotografato ciccione e poi si è fotografato male. Sì. Pensavo si chiamasse MD. La prendi in discoteca, smuti tanto. Sera dopo sera. Quelli sono me la chiamano Muffina. Altri affari sono quelli che in televisione non possono portare. Però c'è questa idea, quindi c'è un ciccione che si fotografa sapendo che prenderà la pastiglietta. Poi io non ho mai capito se è una cosa casuale, cioè il ciccione si fotografa e poi a questo, oppure se effettivamente fa questa scelta di vita e dice la pastiglietta mi fotografa. Perché? No, ma è tutto proprio una cosa organizzata. Cioè quello è il beta tester della pastiglietta. Certo. E qua c'è un altro mistero. Quanti ciccioni muoiono per ogni pastiglietta? Cioè quanti beta tester sacrificano la loro vita cicciosa per permettere a voi di dimagrire 100 kg in questi fantastici dei ciccioni. E soprattutto dove vanno a finire i loro corpi? Il magazzino di attacco. Vengono riutilizzati come sapone per Art Attack. Alla numero 5, gli esperti dei talk show fanno i plastici, parlano di tutto, sono persone che nella vita poi cosa fanno? Aspettano la prossima tragedia. Certo. Beh, la causano, giusto per avere... È bello, speculare sulle tragedie altrui. Bellissimo. Adesso quando chiamano lo psicologo di fronte a una scena di un killer, no? Così lo psicologo per il profilo del killer, cioè, è ovvio che è pazzo, cioè non è che ci vuole. Ma mi sono immaginato nel 2012 quando ci doveva essere la fine del mondo, che tipo abbiamo organizzato tutto noi, no? E dovevamo mettere l'ultima casetta, però non avevamo i soldi per fare la casetta e quindi hanno rinviato. I 4 secondi di imbarazzo. Dici tu quando ride. Intanto continua la trasmissione. Ma non hai capito. Quando la casetta, sì, Andrea, sì. Date da bere a questo. Oggi la i sottotitoli. Alla numero 4, la capacità degli investigatori all'interno delle fiction di risolvere un caso ed avere una confessione in pochi minuti. Grande classico, alla fine di quella mezz'ora di Signore in Giallo e via dicendo, le raduna tutti in una stanza e dice, poteva essere lei? No, poteva essere lei, ma invece è stato lui. E lui ammette tutto. Cioè, si vede incastrato e fa questa confessione. Ma soprattutto Agatha Christie, Poirot e Conan comunque vanno, muore qualcuno. certo, perché ci vuole. Ma guarda che non solo loro, tu guardi anche i vari programmi, CSI, FBI. Sì, ma CSI sono loro e vanno dove c'è stato l'omicidio, non dove vanno loro, c'è l'omicidio. Chi sa che è stato il maggiordomo. No, però vedi anche questo, perché lui dice Conan e io mentalmente penso a Conan il bar. No, Conan è il cazzone di Mario. Ma anche lui, dove va? Qualcuno lo secca, sa. Solo noi ce ne fregiamo a un certo punto. E qua ci voleva la signora in giallo. Sei stato tu. Ma comunque, ragazzi, alla numero 3, il motivo per cui, grande mistero, un colonnello dell'aeronautica in divisa è messo a leggere il meteo. Perché? Cioè, sei un colonnello dell'aeronautica, cioè hai dei gradi, hai un'importanza. Ma è sempre non arriva al fine mese, no? Ma io immagino che sia tipo quando al poliziotto dicono: oh, ti mando a dirigere il traffico. Invece c'è questo tizio, pilota fighissimo, tipo su un F-16 in giro. In radio gli arriva il messaggio: c'è la